Giovedì 21 settembre nella corte della Badessa San Lazzaro per le letture a corte sarà ospitata Alessandra Beltrame per presentare il suo ultimo libro, Il viaggio delle donne. Io sono qui per parlarne proprio con lei. Ciao Alessandra e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie, un saluto a tutte e a tutti. Allora Alessandra, io partirei un po' dalla trama del tuo libro, Il viaggio delle donne. Che cosa racconti all'interno? Dunque, è un libro che segue altri due libri che ho scritto che si intitolano Io cammino da sola e Nati per camminare. E il primo in particolare parlava di un romanzo, parlava del viaggio di questa donna alla ricerca, diciamo, di una nuova strada, un nuovo cammino e anche di mettersi alla prova verso l'emancipazione e ritrovare se stessa come voleva essere. In questo caso il viaggio delle donne è più collettivo, è un saggio in questo caso in cui ragiono intorno a il cammino delle donne odierno legato a tutto quello che riguarda il nostro posto nel mondo e quindi a che punto siamo effettivamente con la parità e con i diritti acquisiti, i diritti concessi dalle leggi. È anche un po' un viaggio, anche un cammino, anche un percorso che racconta di vari luoghi del mondo. Quindi possiamo dire che sia un viaggio metaforico, ma anche poi pratico effettivamente. Sì, beh, poi io uso un po' il pretesto di un cammino che ho fatto recentemente, proprio riscoprendo un'antica via che va dalle Dolomiti fino al mare e mentre cammino poi ragiono intorno anche agli incontri che ho avuto già in passato, che insomma gli stimoli che ricevo mentre viaggio e soprattutto ripercorro anche un po' la storia delle donne e anche la letteratura, per cui cito ma anche l'arte, cito alcune figure importanti. Quello che mi interessa evidenziare è proprio le donne che sono effettivamente libere, che hanno indicato la strada e che a volte ci dimentichiamo che l'hanno fatto. Ecco, dicevamo appunto questo giovedì, anzi il prossimo giovedì sarai a San Lazzaro a presentare Il viaggio delle donne. Come si svolgerà la serata? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, è un po' una sorpresa anche per me, perché ho accolto l'invito di un'amica che è una mia lettrice, che appunto collabora con la Corte della Badessa. Mi piace anche molto questo titolo, Letture a Corte o a Corte, Corte della Badessa, e credo che sarà un dialogo con chi parteciperà e sicuramente insomma mi piacerà, come avviene sempre nelle presentazioni che faccio, perché poi tutto questo nasce anche le esperienze che ho fatto prima e quelle che sto facendo anche dalla mia curiosità, insomma, di confrontarmi. Io sono giornalista di mestiere e le cose che racconto, ma anche insomma gli incontri che faccio, mi piace che siano anche molto legati all'attualità, alla cronaca, per cui lo svilupperemo anche in base a quello che accade. Adesso i temi purtroppo sono insomma molto forti e molto attuali, quelli della violenza alle donne, dei femminicidi purtroppo, per cui nel mio libro appunto parlo, risalgo anche alle origini, no, dei movimenti, non una di meno, eccetera, e quindi sì, credo che insomma il libro non potrà che essere legato a quello che avviene, quello che leggiamo ogni giorno e viviamo ogni giorno. Perfetto, direi allora di invitare tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ancora una volta giovedì 21 settembre nella corte della Badessa a San Lazzaro di Savena per la presentazione del tuo libro, ma per seguire le letture a corte o a corte, come dicevi appunto tu, per tutto il weekend del festival. Sì, Rachele, grazie, grazie mille e grazie a tutti e sicuramente sarò felicissima di essere a Bologna, San Lazzaro, giovedì prossimo.